La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati raffreddatamente insieme qui alla Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale del sabato pomeriggio con il cinema in sala, il cinema da vedere nella settimana che ha fatto parlare di sé, soprattutto per l'assegnazione delle nomination agli Oscar, per la presenza della grande bellezza di Paolo Sorrentino. Peraltro la settimana era cominciata con l'assegnazione del Golden Globe alla grande bellezza, quindi insomma un settimanone, diciamo così, per Sorrentino e compagni. Adesso vedremo cosa succederà il 2 marzo, quando gli Oscar verranno assegnati. Ma nomination vuol dire anche fare un punto sulla stagione del cinema americano. Avete saputo, sapete tutti ormai, delle 10 nomination di American Hustle e di Gravity, dei film che seguono a ruota, di un bel manipolo di una decina di film importanti che hanno comunque avuto tra le 5 e le 9 nomination, quindi come dire abbastanza ben distribuite. Tra queste c'è anche The Wolf of Wall Street, che ho avuto la fortuna di vedere in anteprima ed è un film che vi consiglio vivamente. Ne parleremo diffusamente la prossima settimana perché uscirà il 23 di gennaio. Fra i film che hanno avuto nomination importanti, 6 per la precisione, che non sono assolutamente poche, c'è Nebraska, il nuovo film di Alexander Payne, che è un autore che io amo parecchio. Mi sono piaciuti praticamente quasi tutti i suoi film, diciamo così. Sicuramente sin dalle origini, dai primi film che ha realizzato, ma passando anche per cose un pochino più recenti, questo regista 53enne ha raccontato con, certo, forse minimalista intimità, un'America di passioni, di gente che vorrebbe realizzare i suoi sogni, ma forse riesce a farcela solo in parte. E con questo Nebraska continua in questa storia, mettendo però il focus sul rapporto fra un vecchio padre e un figlio più o meno quarantenne o poco più. E allora è la storia di Woody Grant, che forse è anche colpito dai primi accenni di demenza senile, ma insomma uomo integro tutto d'un pezzo, è convinto di aver vinto $1 milione alla lotteria. Sapete quei volantini che ci arrivano a casa a volte: hai vinto $1 milione, $1 milione, hai vinto. In realtà poi sappiamo tutti che sotto sotto non hai vinto un bel niente. Hai vinto se, hai vinto ci sarà, hai vinto quando comprerai, eccetera eccetera. Beh, insomma, Woody Grant non è molto interessato a queste declinazioni. Lui ha vinto e basta, e allora decide di intraprendere ostinatamente la passeggiata, chiamiamola così, a piedi, perché nessuno lo vuole accompagnare, dal Montana al Nebraska, per andare a ritirare di persona questo premio. Ovviamente questo premio lo sappiamo dall'inizio del film, non ci sarà, ma ci sarà in premio invece il ritrovarsi di un rapporto con un figlio. Allora sentiamo la clip e fra poco ne parliamo. Papà, lasciami in pace. Dai, ti riporto a casa. Io vado a Lincoln anche a costo di crepare. Non mi importa di cosa pensate. Stammi a sentire, non hai vinto un bel niente. È una truffa quella lettera, perciò smettila, ok? Sta per scadere il tempo. Non hai neanche una valigia. Mica ci resto là. Papà, non posso lasciarti andare. Non sono affari tuoi. Sì, invece, sono tuo figlio. Allora portamici tu. Non posso mollare tutto e portarti a Lincoln nel Nebraska. Oh. Perché? Che altro hai da fare? E avete sentito uno dei dialoghi del film. Saluto Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Un film, qualcuno l'ha definito una versione, diciamo così, un pochino nichilista di Sideways, sempre per restare ad Alexander Payne. Però a me sembra che qui ci sia veramente, da una parte un dolore, dall'altra una tenerezza, e poi delle interpretazioni, a partire di quella di Bruce Dern, davvero di primissima qualità. Ma è la bella copia di Sideways, secondo me. Quello che in Sideways era accennato ed era, come dire, strizzava l'occhio a un pubblico più popolare, qui invece decisamente più raffinato. Payne, secondo me, ha sempre avuto il grandissimo pregio di fare un cinema minimalista anche nei suoi punti di partenza. Cioè, cosa c'è di più banale, tra virgolette, di raccontare un rapporto padre-figlio al cinema e di fare un on the road? Poco altro. Eppure lui lo rende poetico, ha questa ruvida tenerezza che si appoggia benissimo su quella faccia incredibile che merita la candidatura all'Oscar di Bruce Dern, ma che si appoggia su questa storia che secondo me lo fa tornare anche ai momenti in cui non aveva la necessità di seguire quello stile che era piaciuto a tutto il mondo, ma di seguire il suo stile. Nebraska è veramente un piccolo gioiello, perché poi Bruce Dern è l'incarnazione di chi crede ciecamente nel sogno americano, quel voler vincere, racconta tutto questo, ossessione che c'è in America per questo. C'è anche però un Bruce Dern che cerca un obiettivo che una vecchiaia e il nichilismo gli avevano tolto, e quindi cerca un obiettivo, un sogno, non gli interessa quale, e probabilmente capisce che camminando ritroverà qualcosa, e lo stesso fa il figlio. Io devo dire, mi sono letteralmente innamorato di un film che è anche imperfetto, che ha anche delle cadute di ritmo, ma che ha una dolcezza mai retorica che merita assolutamente. Assolutamente, poi ci racconta come una delle cose più belle che possa fare un figlio nei confronti di un padre, di un genitore anziano, è quella di accompagnarlo nei suoi sogni, e questa è davvero la grande morale, diciamo, di Nebraska. Allora, promosso a pieni voti Nebraska, un bellissimo bianco e nero tra l'altro nei cinema italiani. A questo punto noi cominciamo a giocare insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Sono come soldi gettati, no? Immagino che la puoi vedere anche così, se vuoi, sì. E non sono nemmeno tuoi. Avete già indovinato di che film, qui siamo nella storia del cinema, di che film si tratta? Scrivetecelo alla Rosa Purpurea a @radio24.it con il vostro indirizzo per ricevere eventualmente una copia in Blu-ray di questo film per i primi due ascoltatori che indovineranno. Noi più tardi vi faremo ascoltare un'altra clip. E allora, un altro film che arriva nelle sale in questo fine settimana e che segna il ritorno di un regista di quelli che hanno un nome molto altisonante, il ritorno di Ridley Scott con un film tutto d'azione che si intitola The Counselor. Procuratore, abbiamo un problema. Il carico è andato. Mi hanno telefonato i nostri soci in affari. Sono sotto di 20 milioni. Pensano che siamo tutti implicati, è così? No, solo lei, procuratore. Lei. Loro non credono alle coincidenze. Ne hanno sentito parlare, ma non ne hanno mai vista una. Sei nei guai. Il massacro che faranno andrà oltre ogni immaginazione. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem, Brad Pitt, eccetera eccetera, insomma cast all star per The Counselor, il procuratore di Ridley Scott. Boris, Ridley Scott che negli ultimi tempi ha alternato film particolarmente interessanti, riusciti, azzeccati, ad altri che si dimenticano facilmente. Qui in che zona siamo? Qui siamo in una zona grigia, perché se con Nebraska parlavamo di un film imperfetto che ti fa innamorare, qui forse parliamo di un film perfetto che però ti lascia freddo. Perfetto perché? Perché c'è Cormac McCarthy che basta e avanza, si è visto da The Road a Non è un paese per vecchi per fare una buona sceneggiatura, basta leggerlo. Perché c'è Ridley Scott comunque molto impegnato in una regia da par suo, ad applicare una sceneggiatura blindata con attori straordinari, e perché il ritmo è bello sostenuto e la storia è interessante. E detto questo però rimani sempre un passo indietro, hai sempre l'impressione che ci sia qualcosa che non ti coinvolge, non ti avvince, forse perché alla fine è tutto troppo al posto giusto. Basta dire che Fassbender inizia come aveva finito con Shane, con Steve McQueen, insomma, dimostrando le sue doti sessuali, le sue doti di amatore. Bardem, come al solito, è pettinato malissimo. Penelope Cruz è in questo ruolo di donna mediterranea che fa impazzire chiunque. Tant'è vero che l'unico momento in cui il film fa un salto sono solo due. Uno è il personaggio di Cameron Diaz, un personaggio parossistico in cui lei è straordinaria, è davvero bravissima a renderlo credibile. E poi un dialogo sulla vita e la morte e sulle scelte, anzi un monologo che ascolta Fassbender, bravissimo Fassbender nei piani d'ascolto al telefono peraltro, e l'attore che il monologo lo porta avanti, meraviglioso. Ecco, ci sono questi lampi, ma poi The Consuelor, secondo me, nel complesso è vero che non ti fa vedere l'orologio per due ore, e non è poco, però non ti rimane neanche nel cuore. E questa allora la recensione di The Counselor, il procuratore di Ridley Scott. Adesso viabilità, fra poco torniamo perché c'è da parlare di un bel film italiano che si intitola La mia classe. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma. Parlavamo, vi promettevamo poco fa, un film italiano, La mia classe, di Daniele Gaglianone, con Valerio Mastandrea, unico protagonista, diciamo, professionale, perché gli altri sono alcuni immigrati extracomunitari che recitano sostanzialmente se stessi. È un esperimento che ricorda un po' quello fatto qualche anno fa da Laurent Canté, cioè quello di entrare in una scuola vera, lì era un liceo della banlieue, qui invece è una scuola per adulti extracomunitari che vogliono parlare l'italiano, vogliono impararlo per integrarsi, perché quello è il sogno, quello è il motivo per cui rischiano la vita per attraversare il mare. E allora Valerio Mastandrea è il maestro di questa classe davvero strana. Sentiamo questa clip. Buongiorno. Buongiorno signore, ho visto l'annuncio nel giornale Porta Portese che voi chiedete una persona che lavora come barbiere. Sì, sì, sì. Mi cercavo persone per lavorare per barbiere. Però se lei ha esperienza? Sì, ho lavorato questo mestiere per 5 anni nel mio paese. E lei da dove viene? Vengo dall'Egitto. Ah, mi piacere, perché io sono bengalese, mi piacerebbe una persona come Asia. L'Egitto è in Africa, gli ha detto ciao. Un clima, insomma, scanzonatamente realista. Che però ci restituisce anche tutta la voglia di un'appartenenza, di un'integrazione da parte di questi uomini, questi giovani uomini, non più ragazzi, che cercano e chiedono e bussano alle porte dell'Europa per trovare una via d'uscita dai loro problemi. Boris, dicevamo, un film che sarà un po' scombinato in certi punti, avrà magari ogni tanto qualcosa che non funziona, però riesce ad avvicinarci, grazie anche a Valerio Mastandrea, che, come ha detto Gaglianone, era l'unico che poteva fare una cosa del genere nel panorama attoriale italiano, riesce ad avvicinarci questi personaggi in maniera umana e anche molto molto ironica, senza piangersi assolutamente addosso. No, assolutamente, credo che sia la settimana dei film imperfetti che vanno oltre i loro limiti. La mia classe è sostanzialmente, appunto, il film di Canté che vinse la Palma d'Oro, che hai citato, che incontra nella seconda parte l'ospite inatteso e nel frattempo decide di fare una cosa che non vi racconterò, che però è una sorta di rottura della quinta parete, che è molto rischiosa a livello narrativo e che forse è la cosa meno riuscita. Nel momento in cui si rimane nella classe o si rimane in questo universo che abbiamo sentito raccontare bene in questa maniera divertente, il film sicuramente funziona molto di più. È un film incompiuto, a mio parere, è un film che ha molte imperfezioni, ma anche un film che ha il pregio di raccontare, tra l'altro, una cosa vera, cioè quella scuola che noi abbiamo visto esiste, quel tipo di umanità esiste e resiste in quel contesto e quel tipo di maestri ci sono e sono proprio così come li racconta Valerio Mastandrea. Ed è una realtà che nessuno nel cinema italiano aveva voluto raccontare in questa maniera, come dici tu, senza retorica, senza volontà pietistiche. E questo secondo me già basta per andarlo a vedere, La mia classe, se fosse solo per conoscere finalmente un altro mondo, un altro universo che ci siede accanto tutti i giorni, che frequentiamo tutti i giorni, ma che volutamente ignoriamo e cerchiamo di allontanare dalle nostre teste e anche dalle nostre politiche. In questo senso La mia classe è un film necessario, è un film magari non sempre bello, è un film che prende delle scelte estetiche non sempre esatte, ma va bene così, insomma, come tornando sempre a Nebraska, meglio provarci, meglio cercare di vincere un premio che non c'è, che rimanere a casa e non avere sogni né illusioni. E tra l'altro mi collego a questo, Boris, per ragioni di brevità non riusciamo a parlare come sempre purtroppo di tutti i film che arrivano in sala, ma dicendo che questa settimana arriva anche nelle sale C'era una volta a New York di James Gray con Marion Cotillard, che vale sempre la spesa del biglietto, ma per raccontarci di quando gli immigrati che solcavano i mari eravamo noi, insomma, sempre per dare una ciclicità storica al cinema ma anche alle uscite, che molto spesso si parlano fra di loro. Assolutamente, in questo caso appunto è solo uno sguardo oltreoceano ma il tentativo è lo stesso, molto più drammatico, molto più melodrammatico. Lì forse il problema è che di retorica ce n'è troppa, però è curioso come spesso e volentieri, come dici tu, il cinema porti avanti un discorso che sembra quasi conseguenziale al di là della volontà degli autori. Boris, grazie e appuntamento alla prossima settimana qui alla Rosa. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, avete visto il panel, diciamo così, della proposta cinematografica in sale, abbastanza ricco, anche un paio di thriller horror tra Lo sguardo di Satana, il remake riuscito maluccio, devo dire, di Carrie, il mitico film degli anni che furono, alle parodie come Hunger Games, visto che sta imperando Hunger Games, arriva anche la sua bella parodia, insomma, è un carré piuttosto, piuttosto ricco. Noi dobbiamo giocare ancora insieme, però, con la seconda traccia del film misterioso di oggi. No, aspetta, aspetta un momento. Aspetta. Vieni. Vieni. È statico, diciamo così, questo momento di questo film che dovete indovinare. Dovete dirci il titolo e il vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray a La Rosa Purpurea @radio24.it. E allora noi a questo punto vi facciamo ascoltare una breve clip invece del game della scorsa settimana. Sentiamo. Beh, non dovrebbe essere difficile, una grande star ora si trova a Parigi. Sì, telefono al dog sitter, tu prendi il passaporto di Blu. Oh sì, una missione di salvataggio, vengo anch'io, così potrò darvi una mano. Una film per i più piccoli, assolutamente per i più piccoli, però un brand che quando era cartone era un grande successo, lo è ancora sulle reti del digitale terrestre e del satellitare, quando è diventato pupazzetti è diventato collezione da maniaci e al cinema continua a fare il suo mestiere. Sono i Puffi, 2000 o poco più di personaggi sempre molto molto vivi, questo era I Puffi 2. I più bravi, i più veloci a indovinare sono stati Salvatore Lofino di Trieste e Mario Perez di San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna. Solo loro riceveranno la copia in Blu-ray di questo Puffi 2, della quale ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio e dagli amici di FilmTV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un ben ritrovati radioascoltatori. Sì, Puffi 2 in Blu-ray, grafica digitale e azione dal vivo per questo aggiornamento contemporaneo dei Puffi, quegli omini blu che però sono lontani parenti dei candidi innocenti a cui eravamo abituati, ma oggi sono più scafati, più spettacolari e adatti ai giorni nostri. Il Blu-ray è tecnicamente ineccepibile e moltissimi sono gli extra, tra cui un minifilm che si intitola La leggenda dei Puffi di Hollow, focus sull'animazione e scene eliminate. Beh, insomma, non male, sempre anche qui il gioco con la parodia funziona. I Puffi 2, quindi, il nostro game della scorsa settimana. Andiamo a dare un'occhiata invece ai passaggi televisivi della prossima settimana, nei palinsesti in chiaro e gratuiti. Abbiamo selezionato un paio di film che hanno nel titolo New York, così era giusto sono assolutamente diversi fra di loro, ma ci piaceva questa assonanza, sempre per parlare di palinsesti che si parlano fra di loro, no? Cominciamo da 1997, Fuga da New York, che sarà in onda domenica 19 gennaio su Rete 4 alle 23:35. Sì, in una New York, in questo film New York è una prigione che fa un baffo ad Alcatraz ed è sicuramente uno dei film che ha segnato maggiormente l'iconografia degli anni Ottanta, firmata poi da uno degli autori artigiani che più mancano al cinema di oggi, ovvero John Carpenter. Questa è veramente fantascienza viscerale, sociale, scura, ironica, con un eroe che ci è rimasto nei cuori e risponde al nome di Jena Plisken. E allora ricordiamo 1997, Fuga da New York, domenica 19 gennaio, Rete 4, 23:35. L'altro film invece è Un re a New York e passerà lunedì 20 gennaio su Rai Movie alle 6:30 del mattino. Sì, da un presidente degli Stati Uniti che precipita in una New York ridotta a prigione, di Carpenter, passiamo a Un re senza trono, il protagonista di Un re a New York di Chaplin, che dopo essere stato cacciato dalla rivoluzione marxista finisce nel mondo moderno di oggi, ma non trova assolutamente l'America. Dopo essere stato esiliato dagli Stati Uniti a causa del maccartismo, Chaplin si prende una bella rivincita sulla società americana con l'umorismo caustico della satira, e questo è un film troppo lungo, sottovalutato, assolutamente da rivalutare. E allora vediamo di cominciare a rivalutarlo dal passaggio in TV, anche per vedere una New York, come dire, d'antan, lunedì 20 gennaio, Rai Movie alle 6:30, Un re a New York. Grazie Giulio e buon lavoro a tutti gli amici di FilmTV. Ciao Franco, alla prossima. E allora, siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione. Io vi voglio ricordare intanto la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace, unitevi alla nostra comunità, che è molto vivace tutta la settimana, con trailer, impressioni sui film appena visti, scambio di informazioni, insomma una comunità degli amanti del cinema, La Rosa Purpurea Radio 24 su Facebook. Poi un'occhiatina anche alle classifiche, siamo usciti, diciamo così, stiamo uscendo da quello che è il trend natalizio capodannesco, anche se in vetta ci sono ancora film che hanno avuto il loro splendore durante le feste di Natale. Su tutti, Un Boss in Salotto, che è ancora primo in classifica all'altezza dello scorso weekend, con quasi 10 milioni di incasso globale. Al secondo posto si insinua Il Capitale Umano, il nuovo film di Birzì, grande trionfo per Peppa Pig al cinema. Solo sabato e domenica ha fatto qualcosa con 1.327.000 euro, terzo posto, e sarà anche questo sabato e questa domenica al cinema, quindi davvero anche qui un fenomeno clamoroso quello di questa famiglia di maialini. Quarto posto per The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca, che è stato abbastanza, come dire, in secondo piano nella lista delle nomination. E poi quinto posto per Sapore di Te di Carlo Vanzina, che era stato nostro ospite la scorsa settimana. Un'occhiata anche in America, Lone Survivor, un film di Peter Berg sull'Afghanistan, molto molto duro, film di guerra che racconta una vera operazione condotta in Afghanistan, è al primo posto negli Stati Uniti con 38 milioni il primo weekend. Secondo posto per Frozen, che pensate, in America ha fatto 300 milioni di dollari, siamo a cifre inaudite. Terzo posto per The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, che è partito molto bene negli Stati Uniti e che la prossima settimana sarà qui da noi. Grazie davvero a Peter Bescapè, che ci ha aiutato in regia, a Isotta Scenna in redazione. Io vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana qui su Radio 24 per La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.